Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibald, Zibald, Zibald, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio, ben ritrovati come tutti i venerdì qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda. Io sono Steven Forti e questo, come sapete, è un programma in italiano non solo per italiani. Non da tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese, Contrabbanda FM 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world alla web www.contrabbanda.org. E poi soprattutto vi ricordo il nostro blog dove potete scaricare tutti i podcast di Zibaldone. Ci trovate all'indirizzo zibaldone.contrabanda.org. Oggi 29 aprile, ultima puntata del mese, una puntata che vogliamo dedicare, come spesso facciamo da parecchi anni, al 25 aprile. Avremo diversi ospiti per parlare di questa ricorrenza, che non è solo una ricorrenza, è una festa innanzitutto nazionale della liberazione dal nazifascismo. Siamo al 77esimo, ovviamente, come già sapete, anniversario, ma anche un momento da ricordare di cui è importante parlare, capirne l'importanza tutt'oggi, andando al di là di discorsi un po' forse a volte ripetitivo. Cominciamo però con un po' di musica e poi ne parliamo con calma del 25 aprile e del suo valore. Tenuta fischia, mastica e sputa, parole non ne dice, resta muta. Amara, tempo ne tengo, fine agosto è già capo d'inverno. Io so aspettare, chi di noi ha il fucile, chi è l'animale, che vita amara, seduta ai bordi della strada. Da qua devi passare, e io poto aspetto, pure se il cielo è scuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto. Che mi manca il coraggio, da qua devi passare, a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno, stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno, ti mordo e ti avveleno. Amore, con gli occhi asciutti, forse era meglio che nascevo micia. Miau miau miau miau miau miau miau miau miau. Striscia, squiscia e t'affusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana, vuoi essere palude tu che sei fontana. Da qua devi passare, rallenta l'andatura. tesoro, non ti mettere paura. Se ti fisso un poco di traverso è per vederti dritto una volta almeno, e niente di meno. Stanotte si t'acchiappo, ti mordo e ti avveleno. Stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno. Stanotte si t'acchiappo, ti mordo e ti avveleno. Tanto da qua, da qua, da qua, da qua, da qua, da qua devi passare. E io qua t'aspetto, pure se il cielo è scuro mai detto. E per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare. A testa china, che spina dentro al cuore questa sfida, niente di meno. Stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno. Ti mordo e ti avveleno. Si intitola Bocca Amara il brano con cui abbiamo aperto lo zibaldone di quest'oggi. Flo con la voce inconfondibile, e forse l'avete riconosciuta, di Peppe Servillo, un brano contenuto nel nuovo disco di Flo, Brave Ragazze. Flo è una cantautrice che seguiamo da tempo, abbiamo parlato più ormai di un anno fa del suo ormai penultimo disco, 31 Salvi Tutti. Brave Ragazze è il suo nuovo disco, che è proprio in uscita in queste settimane. La storia, racconta Flo, è quella di una donna ferita, indispettita, con la bocca amara, ma così amara che potrebbe avvelenare il traditore con un piccolo morso. Con questa canzone abbiamo aperto la puntata che è dedicata al 25 aprile, e voglio dare subito il benvenuto al nostro Banzo, Enrico Banzola, ergonomico più che mai, immagino, bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che questa donna con la bocca amara è un po' la mela di Biancaneve al contrario, non starò a verificare troppo l'esattezza della mia affermazione, però ci capiamo, qui non è il morso alla mela che causa l'avvelenamento, ma il morso stesso. Eh sì, effettivamente, ma tra l'altro poi, insomma, visto che parliamo di 25 aprile, possiamo trovare anche un collegamento con questa canzone, tenendo in conto che stiamo parlando di canzone napoletana, perché il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è stato proprio per festeggiare questo 25 aprile ad Acerra, uno dei primi luoghi dove si è data la resistenza contro l'occupazione nazifascista dopo l'estate del 43. Insomma, è anche un'altra cosa da ricordare, come appunto le giornate di Napoli proprio di quell'autunno. Se vuoi Steven, ti trovo subito anche un altro collegamento fra questa canzone e il 25 aprile. Sentiamo un po'. Che sta nel titolo, evidentemente, perché tutte le solite polemiche portate dai soliti attori sociali e politici lasciano un po' l'amaro in bocca, cioè che continuano ad accumularsi gli anni e torniamo con questa, scusami il tecnicismo, puttanata, che il 25 aprile sia qualcosa di divisivo, come giustamente si è detto. Il 25 aprile è divisivo solo se sei, ecco, questa è un po'. Sì, la, hai perfettamente ragione. E tra l'altro, insomma, è bene ricordare come chi vuole, insomma, fare la desdiabolisation all'italiana, seguendo Marine Le Pen, per quanto non abbia molti rapporti con Le Pen, ossia Giorgia Meloni, propone da tempo, anche adesso che si dice così moderata e centrista, eccetera, eccetera, insomma, è donna di Stato che potrebbe anche portare le redini di un governo, insomma, chiede da tempo di convertire il 25 aprile in una festa non divisiva. E proprio questa settimana, in occasione della morte a 100 anni della vedova di Giorgio Almirante, insomma, basta vedere un po' i tweet di Meloni e del suo partito, quello che vengono a dire, quindi insomma ricordiamoci da dove vengono e chi sono, no? E soprattutto ricordiamoci quali sono stati i valori dell'antifascismo e come questi valori si debbano aggiornare, perché sono importantissimi al giorno d'oggi, quando l'ultradestra ottiene i risultati che ottiene. L'abbiamo visto con Marine Le Pen in Francia qualche giorno fa, in Italia sappiamo bene insomma l'ultradestra tra Salvini e Meloni, i risultati che sta ottenendo da alcuni anni. Ecco, Steven, avevo fatto questa, diciamo, battuta per introdurre l'argomento, col risultato che mi trovo veramente con la bocca amara dopo tutto questo discorso. Non abbiamo detto niente di nuovo, però diciamo è quell'amaro calice che siamo ormai abituati a bere, perché queste sono le circostanze oggettive della politica e della società nelle quali cerchiamo di muoverci in modo costruttivo, ecco. Eh sì, dai, andiamo a ascoltarci una canzone prima di spiegare ai nostri ascoltatori chi ci accompagnerà quest'oggi a Zibaldone. Andiamo ad ascoltarci l'album d'esordio di questo cantautore romano. Lui si chiama Claudio Cirillo, il disco si intitola 365, 365 scritto in numeri, appunto i giorni dell'anno, perché l'album ha 12 tracce, una per mese. Noi vi proponiamo la prima, anche se siamo ormai quasi a maggio, noi ci andiamo ad ascoltare questa canzone che si intitola Gennaio. Ci troviamo qui ad appuntarci le speranze per un futuro differente, e ogni volta sì, ci troviamo qui dopo una notte devastante, con la testa che batte, che batte, e ti ricorda che... Oggi è primo dell'anno e vorresti che, come l'inizio di un quaderno che non è stato mai scritto, fosse tutto perfetto, tutto più adatto, senza cancellare, scrivere soltanto, non importa quello che hai fatto, perché ora c'è un nuovo inizio. A gennaio non essere crudele come sempre, io ti chiedo solamente, lasciami sognare, lasciami sognare, e lasciami sperare, e lasciami sognare sia possibile, anche il sogno è raggiungibile. Con la dieta ci ho provato, è partita in modo vero, ma non ci siamo più trovati, ma siamo rimasti amici però, eh. E con lo sport è andato uguale, ho iniziato a far sul serio, io che mi ero innamorato, ma è stato lui che mi ha tradito. Giuro è andata così, proprio così, è andata così, proprio così, non è una scusa banale, ho un pretesto da raccontare. Giuro è andata così, è andata così, proprio così, ho provato a stare bene, ma è questo mese che mi fa male. E dai, almeno per oggi. E lasciami sognare, e lasciami sperare, sì, lasciami sognare, che tutto sia possibile, anche il sogno è raggiungibile. Crudele come sempre, io ti chiedo solamente, e lasciami sognare, lasciami sognare, dai lasciami sperare, e lasciami sognare, che tutto sia possibile, anche il sogno è raggiungibile. E lui è Claudio Cirillo, Gennaio, Banzo, una battuta telegrafica su questa canzone, sicuramente ce l'hai pronta perché ti conosco. Come hai detto tu giustamente, siamo a fine aprile e forse ascoltare questa canzone in questo momento dell'anno ci può portare a considerare se i nostri propositi per il 2022 sono a buon punto, cioè magari non ci pensiamo nella frenesia della vita quotidiana, ma ecco, ci ritroviamo catapultati con la musica indietro di 4 mesi, dici, beh, come stanno andando le cose? Ecco perché a gennaio c'è sempre questo orizzonte di possibilità infinite che poi... Vabbè, manca a settembre, eh? dopo l'estate. È vero, sono i due momenti di inizio dell'anno. Ascolta, e quindi insomma, se tu dovessi rispondere alla domanda che hai posto? Ma... Sorvoliamo? Ma io credo che sia una risposta che dà tutte le informazioni necessarie. Sì. Ecco, dai, allora, ascolta, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori chi ci accompagna quest'oggi, perché a brevissimo avremo con noi Alberto Pellegrini, che è storico, ma è anche presidente della sezione Ampi Spagna, dedicata a Guido Picelli. Parleremo con lui dell'iniziativa che si è svolta qui a Barcellona, della sezione appena costituita dell'Ampi Spagna e di tante altre cose che hanno a che fare con il 25 aprile, la memoria della guerra partigiana e anche la situazione politica attuale. E poi avremo con noi Stefano Scacchetti, autore del romanzo Ribelli, un romanzo appunto ambientato ai tempi della Repubblica Partigiana dell'Ossola, di cui ci parlerà nella seconda parte di questo Zibaldone. Non mancheranno news musicali come anche quelle che avete appena ascoltato. Insomma, visto che siamo al 25 aprile, Banzo, andiamo a ascoltarci una versione di Bella Ciao, non può mancare, direi, no? Che dici? No, non può mancare, quindi procediamo. Allora, procediamo. Non vi dico di chi è, ve lo dico dopo averla ascoltata. Bella Ciao, ovviamente. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questa ovviamente era Bella Ciao nella versione mitica, ormai più di 50 anni, di Yves Montand. Come sapete, è una delle canzoni che più è stata riproposta in diverse lingue, in diverse versioni, diversi generi. Noi quest'oggi abbiamo scelto questa. Il 25 aprile è stato qualche giorno fa, lunedì, e si è tenuto anche, si è celebrato, si è festeggiato anche qui a Barcellona. Ovviamente il giorno prima, perché lunedì non era festivo, quindi 24 aprile, domenica, a Barcellona, la Plaza del Rei, l'Ampi Spagna, ossia la sezione spagnola dell'Ampi, Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, ha voluto riunire diverse associazioni, diverse istituzioni per ricordare questa data importante, la liberazione italiana dal nazifascismo, ma anche la liberazione dal fascismo, dalla dittatura di Salazar in Portogallo. E ci sono state tante persone. Di questo e di tante altre cose, soprattutto della nascita della sezione spagnola dell'Ampi, vogliamo parlarle con Alberto Pellegrini, che è presidente dell'Ampi Spagna e professore di storia contemporanea all'Università di Barcellona. Alberto, innanzitutto benvenuto a Zibaldone. Molte grazie, buongiorno a tutti quanti, grazie per avermi invitato, per avermi chiamato. Un piacere, e ci sembra doveroso poi, insomma, tra l'altro in questa data, in questa fine di aprile, tra il 25 aprile e il 1 maggio, ricordare il 25 aprile, il valore del 25 aprile, e partirei, insomma, da questa bella iniziativa che avete organizzato qualche giorno fa, domenica 24 aprile qui a Barcellona. Sì, certamente è stato il nostro, diciamo così, debutto pubblico come neonata sezione di Ampi Spagna. Anche perché, inoltre a essere nati da poco, abbiamo visto che quest'anno fortunatamente non ci sono stati problemi relativi alla pandemia, per cui abbiamo subito messo in cantiere come nostra prima iniziativa l'idea di organizzare una manifestazione, un evento per festeggiare appunto la liberazione d'Italia dal nazifascismo, ma anche la liberazione per esempio del Portogallo, e comunque per sottolineare i valori democratici di pace, libertà, uguaglianza, giustizia che erano propri dei resistenti e di coloro che fecero la scelta giusta nel 1943-45, insomma. Quindi noi abbiamo organizzato un evento che si è tenuto all'aperto in una delle piazze centrali di Barcellona, un evento che è stato centrato sul tema di democrazia resistente, un evento nel quale appunto abbiamo avuto un'ottima risposta da parte non solo del pubblico ma anche delle istituzioni, perché noi volevamo che fosse un evento anche tra virgolette diciamo così istituzionale, con presenza di quelle che sono personalità a livello di governo spagnolo, di governo catalano, di governo municipale qui a Barcellona, e abbiamo avuto un'ottima risposta perché abbiamo avuto presenza dalla Generalitat, cioè il governo catalano, ma soprattutto diciamo la stella, per dire così, è stata la presenza del sindaco Ada Colau, che ci ha fatto il gran piacere, il gran regalo di assistere personalmente, di intervenire anche per aprire la nostra discussione, aprire la serie di interventi e poi anche di affiliarsi, di associarsi alla nostra associazione. C'è stata la presenza anche delle istituzioni italiane, c'era presente il console d'Italia, la presidente dei comites, c'erano presenze di associazioni legate agli stessi valori, alla resistenza, così come quelle spagnole qui locali, Emergency, Mediterranea, c'è la presenza di un ospite portoghese che ha portato la sua testimonianza. Possiamo legittimamente essere molto soddisfatti della risposta, sia appunto del pubblico che dell'istituzione. È stata una bella giornata, accompagnata anche da un bel tempo caldo e primaverile. E diciamo che insomma come primo passo è andato tutto molto bene, direi. Fantastico. E ascolta Alberto, insomma in questo periodo in cui vediamo l'estrema destra crescere un po' ovunque, insomma Orban ha rivinto le elezioni in Ungheria poco prima di Pasqua, Le Pen è passata al secondo turno, per quanto abbia perso ha ottenuto oltre 13 milioni di voti, ma poi insomma in Spagna Vox è entrata anche per la prima volta in un governo regionale in Castiglia e León, in Italia sappiamo benissimo che insomma Salvini e Meloni si aggirano attorno al 40% insieme. Quali sono gli insegnamenti dell'esperienza della resistenza, della guerra partigiana italiana, e qual è il valore dell'antifascismo ormai a un'ottantina di anni di distanza da quello che successe negli anni 30 e 40? Partirei da questa seconda parte della domanda, vale a dire qual è il valore dell'antifascismo ormai che sono passati più di 70 anni alla fine della seconda guerra mondiale. L'antifascismo, a differenza da quello che si suole considerare, no? Una cosa da quattro partigiani comunisti che volevano la rivoluzione. No, signori, io quello che cerco sempre di sottolineare è che l'antifascismo è un valore condiviso di tutti coloro che devono credere nella democrazia. Se uno crede nella democrazia e nelle istituzioni democratiche di qualsiasi stato siano, deve essere antifascista, perché l'antifascismo è democrazia, è lotta per la democrazia, perché il fascismo è il contrario della democrazia. Quindi se noi ci dichiariamo democratici e pensiamo di dover mantenere la democrazia come asse portante del nostro discorso politico, dobbiamo essere antifascisti. Gli antifascisti, lo ricordo sempre, erano sì, alcuni erano molti erano comunisti, molti erano monarchici, democristiani, liberali, conservatori, patrioti, apolitici, e ricordo, giusto per chi se ne tende a dimenticare, che la Costituzione della Repubblica Italiana ancora vigente, che nessuno mi pare al momento ancora dice di volerla buttare via, è una Costituzione scritta dagli antifascisti che fecero la resistenza e fecero la scelta giusta nel 43-45. Quindi se noi ci diciamo democratici e professiamo fede democratica, dobbiamo essere antifascisti, perché il fascismo è esattamente l'opposto alla democrazia. E quanto agli insegnamenti, per esempio io cerco sempre di ricordare l'unità di tutti coloro che dissero di no in quel momento, non si divisero, potevano avere idee politiche, le avevano certamente diverse, in alcuni casi anche opposte se vogliamo, ma in quel momento seppero unirsi per un obiettivo comune, seppero individuare alcuni valori fondamentali che crediamo che debbano essere i valori su cui si fonda comunque la società e il mondo del XXI secolo, non solo quello del XX, l'uguaglianza tra i popoli, il rispetto, la pace, la giustizia, la democrazia, cioè, sono cose che a parole in bocca tutti dicono, ma purtroppo vediamo, come è stato appena citato, che non proprio tutti quanti praticano. Una cosa è dirlo, un'altra cosa è praticarlo. Beh, noi qui vogliamo ricordare che alcuni non solo lo dicevano, ma anche lo praticavano e ne hanno fatto la base delle costituzioni, per esempio, vigenti ancora nel nostro paese, in Italia. E collegato con questo, in Italia lo sappiamo bene, come minimo dagli inizi degli anni 90, c'è stato un fenomeno che è quello della banalizzazione del fascismo, ossia del fascismo come esperienza storica. Credi che questa operazione, per così dire, questo fenomeno sia davvero importante e abbia delle conseguenze notevoli sulla nostra società? Fino a che punto? E fino a che punto va anche questo al di là del caso italiano? Credo che sia importante, sì, temo che sia importante, mi fa paura che sia importante, mi spiego meglio, perché si perde di vista quello che è stato l'essenza concreta dell'esperienza del fascismo, non solo in Italia, ma anche ovviamente delle dittature pseudo simil fasciste di quegli anni in Europa e non solo in Europa. Questa banalizzazione, questo erano tutti in fondo uguali, in fondo poveretti, ma signori, cioè, da una parte c'erano coloro che deportavano gli ebrei nei campi di sterminio, voglio dire, e che non avevano grossi problemi a farlo. Credo che siano cose che francamente dovrebbero far paura ancora adesso. Quindi la banalizzazione, che è stata chiaramente un fenomeno molto forte in Italia, ma non solo in Italia, ci deve far riflettere, ci deve far paura, io credo, perché sarebbe come banalizzare un assassinio, banalizzare i crimini, insomma, di qualsiasi specie si tratti, non sarebbe come banalizzare, non so, un assassino, un mafioso. È preoccupante, secondo il mio punto di vista, molto. E qual è il tuo giudizio sulle istituzioni italiane negli ultimi anni? Non mi riferisco tanto ai governi Berlusconi dei decenni passati, di cui insomma si sono ricordate spesso queste banalizzazioni del fascismo, ma mi riferisco anche proprio ai vertici della Repubblica. Credi che ci sia stata, soprattutto con Mattarella, una maggiore presa di coscienza di quello che ha significato e significa tuttora l'antifascismo, o vedi a volte degli scivoloni o delle prese di posizioni che sono un po' ambigue, che vanno nella linea, insomma, penso a quando si parlava dei ragazzi di Salò, eccetera, eccetera. Ma allora, devo dire che francamente il presidente Mattarella, secondo me, sta dando dei segnali nella direzione corretta, nella direzione giusta. Le sue parole sono spesso parole che credo che dobbiamo sentirci di condividere, perché insistono sulla importanza di certi valori, di certe cose che insomma dovrebbero essere nei cuori di tutti. Penso anche, per esempio, a un gesto come la senatrice a vita Liliana Segre. Beh, insomma, vuol dire, non ha scelto una persona qualsiasi, ha scelto Liliana Segre, con tutto ciò che significa, voglio dire. Quindi, da questo punto di vista, io su Mattarella ho una visione abbastanza positiva del suo ruolo. Sì, ogni tanto può esserci qualcosa che magari non del tutto siamo d'accordo, però insomma mi pare che dedichi una certa attenzione, forse anche di più di altri suoi predecessori. Dopo, purtroppo Mattarella è una persona e altre persone non sono o non sembrano essere sempre così attente e sempre così presenti e sempre così vigili. Un po' questo discorso dei ragazzi di Salò che hai citato, beh, effettivamente le parole di Violante le ricordiamo un po' tutti, purtroppo, da una persona come Luciano Violante, beh, francamente non ce lo saremmo aspettati, ecco, diciamo, e purtroppo alcuni ogni tanto ci sorprendono negativamente. Sì, diciamo che in alcuni sensi va bene, in altri si potrebbe fare meglio, ecco, diciamo così. Non posso non farti una domanda che riguarda anche l'attualità, visto che di Ampi si è parlato molto recentemente e c'è stata anche... mi permetto di dire, una campagna di stampa molto dura contro l'Ampi, e mi riferisco riguardo alla guerra in Ucraina e alle recenti vicende che stiamo vivendo e alle comparazioni che sono state fatte da alcuni tra quello che si vive a Kiev e quello che si è vissuto nei primi anni 40 in Italia e in Europa. Mi piacerebbe avere una tua opinione al riguardo. Allora, è una questione molto complessa, ovviamente, che meriterebbe ampi dibattiti e che si allontanino dal cancan mediatico sovente scatenato in forma, io direi, volontaria, nel senso c'è chiaramente un intento polemico e ci sono chiaramente anche degli abusi, nel senso una cosa è dissentire, esprimere contrarietà, un'altra cosa è insultare, che credo nessuno dovrebbe fare, ovviamente. Detto questo, quindi, e messo anche un po' in rilievo il fatto che certa stampa, certi mezzi di comunicazione, dal mio punto di vista, hanno francamente passato un limite, cioè quello dell'insulto, che non è tollerabile. Detto questo, fare paragoni storici è sempre molto complicato, perché tutte le realtà ovviamente sappiamo che non sono le stesse, questo è una ovvietà. Io però penso anche, e sto parlando a titolo mio personale chiaramente, non è che con questo voglio esprimere la posizione né di tutta la sezione né di tutto Ampi né niente del genere, penso anche che Ampi come associazione antifascista con più di 130.000 soci, credo che sia la più grande d'Europa, con responsabilità anche di carattere istituzionale, dovrebbe, credo io, essere un po' più prudente in certe affermazioni. Non si può permettere certi scivoloni o certe ambiguità, perché appunto non stiamo parlando del circolo dei pensionati del quartiere, stiamo parlando di un'associazione con più di 130.000 aderenti, che quando fa un'affermazione la deve meditare ragionevolmente e deve anche, credo io, tenere in dovuta considerazione l'impatto mediatico che questa affermazione può portare. Si può essere a favore o contro l'invio di armi agli ucraini, questo è un altro discorso, però quello che non si può fare è dare il fianco a chi vuole o può o vorrebbe attaccarti. Bisogna essere prudenti, bisogna essere attenti nelle dichiarazioni. Detto questo, aggiungo solamente due cose, perché appunto, come ho detto, il tema è molto lungo. Una prima cosa, c'è evidentemente un problema interno, che si è amplificato alla stampa, è un altro discorso, però c'è evidentemente un problema interno dentro Ampi, quando ci sono delle posizioni chiare di autorevoli membri, l'ultima è stata la vicepresidente, una dichiarazione di qualche giorno fa, credo su Repubblica fosse, nella quale si dice in disaccordo con la linea della presidenza. Beh, vuol dire che c'è un problema, voglio dire, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Questo problema c'è, ci sono delle posizioni diverse, divergenti, sono state manifestate anche durante il congresso nazionale, evidentemente. Questa è una prima questione sulla quale io inviterei a riflettere. Se ci sono delle posizioni divergenti, ciò obbliga, deve obbligare a una riflessione. Seconda cosa, forse anche per deformazione professionale, io credo che Ampi dovrebbe essere molto più attenta, cosa che ultimamente non ha fatto, nelle dichiarazioni e nelle affermazioni di carattere storico. Siamo Ampi e il nostro dovere è mantenere la memoria e, come si dice, proteggere e cullare, se vogliamo, la storia, e certe affermazioni anche fatte in certi momenti da alcuni rappresentanti dell'associazione, francamente rasentano la sciocchezza, me lo dico francamente. Bisognerebbe essere molto più attenti. Ora, certo, si possono fare errori, d'accordo, ma fino a un certo punto. Certo. E noi facciamo una piccola pausa musicale, andiamo ad ascoltarci Siamo i ribelli della montagna nella versione degli Just Mamò, e poi ritorniamo qui ancora con te per continuare questa chiacchierata e parlare più in concreto dell'Ampi Spagna. Dalle belle città date al nemico Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti. Torniamo qui con Alberto Pellegrini, presidente della sezione spagnola dell'AMPI, che si è costituita proprio negli ultimi mesi. Alberto, a questo proposito, ci racconti un po' com'è nata l'idea di creare la sezione spagnola dell'AMPI e poi anche di dedicarla a Guido Picelli? Sì, certamente. Allora, l'idea è nata circa un anno fa, nella primavera scorsa, diciamo febbraio-marzo. È nato, io direi, abbastanza casualmente, nel senso che io personalmente ho visto una notizia, non mi ricordo su che giornale online, di che AMPI Italia apre la campagna di tesseramento per il 2021 e mi sono fatto una domanda: perché io non sono iscritto? Voglio dire, credo in certi valori, anche per tradizione familiare, diciamo, insomma, è perché non sono iscritto. E allora, visto che io sono residente a Barcellona ormai da 20 anni, sono andato a vedere se esistesse una sezione in Spagna o a Barcellona di AMPI. Ho visto che non esisteva, che credo ne fosse stato iniziato a costituire una, ma insomma era scomparsa da un sacco di anni. Come residente all'estero non posso iscrivermi alle sezioni italiane, ovviamente, e quindi sono entrato in contatto con altre persone che vivono, altri italiani che risiedono qui a Barcellona, di differenti ambiti, lavorano in CGL o in altre associazioni, comunque non necessariamente legati al mondo dell'università dove lavoro io, per vedere se fosse possibile, insomma, costituire una sezione qui, come del resto sapevamo tutti, esistono sezioni estere, ce ne sono in Germania, in Francia, in Inghilterra, voglio dire, è normale, ci sono le comunità italiane, fanno le sezioni dell'AMPI. Abbiamo visto appunto che qui non esisteva, abbiamo cominciato a muoverci per capire come, dal punto di vista burocratico, formale, si dovesse costituire la sezione. Abbiamo chiesto l'autorizzazione ovviamente al Comitato Nazionale, l'AMPI Nazionale. Abbiamo avuto una prima risposta nell'estate scorsa, giugno-luglio 2021, abbiamo cominciato ad aprire una fase costituente, diciamo così, a partire da ottobre, con un'assemblea alla quale ha partecipato anche Filippo Giuffrida, che è il coordinatore, diciamo, delle sezioni estere di AMPI, e abbiamo cominciato a tesserare soci. e adesso a marzo, metà marzo, proprio alla vigilia del congresso nazionale, che è stato verso il 20 di marzo, se non mi ricordo esattamente le date, abbiamo avuto la conferma da parte del Comitato Nazionale che anche per la quantità di soci che siamo riusciti ad affiliare, siamo ufficialmente nati come sezione Spagna di Ampi. Una cosa se ti interrompo, parlavi di soci, quante persone già sono iscritte all'Ampi Spagna? Possiamo già dare dei numeri o almeno avere un'idea anche per capire che tipo di interesse c'è stato e c'è tuttora? Sì, adesso il numero esatto non lo so, ma siamo attorno ai 135-140 soci, che è un numero di tutta importanza, comparato ovviamente, qui certo, non siamo in Italia, i numeri italiani sono altri, però comparato con altre sezioni estere, abbiamo visto che abbiamo avuto un'ottima risposta da parte non solo della comunità italiana, consistentissima qui in Spagna, ma anche da parte di cittadini, passaporto spagnolo diciamo, cioè cittadini spagnoli che vivono qui, che si sono interessati per l'iniziativa e hanno dato la loro adesione e si sono quindi affiliati alla nostra associazione. Quindi numericamente siamo partiti bene, adesso speriamo di proseguire meglio, ecco. E quanto alla denominazione Guido Picelli, le sezioni tendono a essere appunto intitolate a un tipo di personaggio. Guido Picelli, noi abbiamo deciso subito che dovesse essere dedicata a lui questa sezione. Guido Picelli è stato un personaggio molto rappresentativo di una certa fase storica tra il periodo tra le due guerre mondiali. Era un antifascista italiano che è stato anche parlamentare comunista, che animò giusto 100 anni fa le famose barricate di Parma, quando Parma si difese dall'assalto delle camicie nere, unica città di una certa importanza, intendo dire, che respinse l'attacco di Balbo e dei suoi schierani, dire. E poi si esiliò, ovviamente, su Roma per esiliarsi, noi in Francia, e nel 1936 Guido Picelli venne in Spagna, quando la Repubblica Spagnola venne aggredita dal colpo di Stato dei militari aiutati da Hitler e da Mussolini, venne in Spagna a lottare, così come altre migliaia di italiani e non solo, a difesa della Repubblica. Morì in combattimento a inizio del 1937. Quando morì in combattimento gli vennero tributati importanti onori, gli venne fatto più di un funerale pubblico a Madrid, Barcellona, eccetera. Venne sepolto nel cimitero qui della città di Barcellona, Montjuic. Poi quando arrivarono al potere, quando conquistarono la città, i franchisti ovviamente vandalizzarono il suo luogo di sepoltura. Adesso noi sappiamo che è da qualche parte il suo corpo lì, ma non sappiamo dove. Insomma, comunque ci pareva che una persona che seppe dire no e con successo alle camicie nere di Balbo e poi prese letteralmente armi e bagagli e si recò in Spagna per difendere i valori nei quali credeva, pensavamo fosse una persona assolutamente meritevole. Sì. Ampi Spagna, sezione Guido Picelli, la prima assemblea generale l'avete tenuta proprio il mese di marzo, la prima uscita pubblica all'inizio di questa settimana, o meglio dire domenica scorsa in occasione del 25 aprile di questo 2022. E, Alberto, avete già altre attività in cantiere per i prossimi mesi? A parte che ovviamente la manifestazione di ieri ha concentrato, come era normale, la nostra attenzione negli ultime settimane, anche per appunto tutta una questione di serie di questioni burocratiche, le istituzioni, console, sindaco, eccetera. Ma abbiamo intenzione di continuare a lavorare, per dirlo così, con questa idea che crediamo che sia fondamentale di costituire un po' una sorta di ponte di tram tra la comunità italiana consistentissima qui di Barcellona, della Spagna in generale, e la comunità spagnola, ma non solo. Quindi sì, abbiamo in programma, per esempio, discuteremo adesso in prossima riunione, abbiamo all'ordine del giorno delle proiezioni di film, per esempio il documentario Bella Ciao, che è stato presentato al Congresso Nazionale di Riccione, abbiamo intenzione di fare le proiezioni pubbliche, preparare delle attività in collaborazione con la scuola italiana di Barcellona, di lanciare un concorso che abbiamo appena lanciato, la pubblicazione di una serie di racconti brevi dedicati alla resistenza con il nostro patrocinio. Vale a dire, abbiamo varie cose in cantiere, ovviamente poi abbiamo la nostra presenza sui social, quindi attraverso Twitter, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, e anche in collaborazione non solo, come dicevo, con le realtà locali, ma anche con le istituzioni italiane, tanto a livello di consolato come a livello di ambasciata, che hanno mostrato un grande interesse, importanti interessi, io direi. Beh, per la nostra iniziativa, per mantenere contatti, darci diffusione, insomma, da questo punto di vista è stata una risposta molto buona, anche perché appunto noi, giusto per dire, noi non siamo nati come Ampi Barcellona, ma proprio come Ampi Spagna, sì, perché vogliamo, sì, appunto agire in tutto, per quanto ci sia possibile, in tutto l'ambito territoriale dello Stato spagnolo. Abbiamo iscritti a Madrid, abbiamo iscritti a Valencia, abbiamo iscritti alle Baleari, a Saragozza, quindi la nostra dimensione vuole essere su tutto il territorio. Eh beh, un'ottima notizia, complimenti per questa prima attività, in bocca al lupo per le prossime, e hai fatto bene a ricordare, grazie, appunto i canali social, anche per chi magari è in ascolto ed interessato a saperne di più, a seguire le vostre attività e magari anche a farsi socio di Ampi Spagna. Alberto Pellegrini, presidente di Ampi Spagna, storico, professore di storia contemporanea dell'Università di Barcellona, grazie davvero di essere stato con noi e alla prossima. Grazie mille per l'invito, ci risentiremo prossimamente, grazie. Noi andiamo ad ascoltarci una terza canzone dedicata al 25 aprile di questo 2022, alla resistenza alla guerra partigiana, sono i CSI, Guardali negli occhi, una canzone che uscì quasi 30 anni fa, nel 50esimo della liberazione, 1995, Materiali Resistente, era questo il titolo di quella compilation in cui era contenuta anche questa canzone di CSI, Guardali negli occhi. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E tu, madre, perché non sei morta? E tu, padre, perché vivi ancora? La conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Ho memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi. Thank you. bersagliere ha 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti che giura neve la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno il partigiano Baldone. Radio Contrabanda. Abbiamo con noi Stefano Scacchetti, autore di un romanzo intitolato Ribelli, il romanzo dalla scintilla di Villa d'Ossola alla Repubblica dell'Ossola, uscito recentemente per i tipi di La Pagina. E innanzitutto Stefano, benvenuto a Zibaldone in questa puntata che, come i nostri ascoltatori già sanno, è dedicata al 25 aprile e alla memoria della guerra partigiana. Steven, intanto grazie a te per l'ospitata, perché veramente mi fa molto molto piacere essere tuo ospite. Questo libro è uscito già da qualche anno ed è dedicato in realtà alla famiglia di mio padre, ma si va a incastrare in un momento della resistenza italiana molto specifico, in una zona molto specifica del nord Italia, la Val d'Ossola, che è la mia terra d'origine. Tu sei originario di Villa d'Ossola, esattamente, no? Esattamente. E questo romanzo, tu lo spieghi, insomma, nasce dai racconti dei tuoi nonni, dei tuoi zii, appunto sull'Ossola, la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza e la Guerra Partigiana. Sì, assolutamente. In realtà l'Ossola è proprio uno dei punti nevralgici del partigianato del nord Italia e non ha niente a che vedere, non ha niente a che invidiare, perdonami, con altre zone, no? Sappiamo le Langhe, sappiamo il Cuneese, ma la Val d'Ossola è comunque un grande primo punto, e c'è una storia clamorosa, i famosi 40 giorni di libertà, che vanno dal settembre, l'8 settembre del 44 al 14 ottobre del 44, dove c'è addirittura una repubblica, cioè i partigiani cacciano nazifascisti, danno in mano il potere a dei civili, quindi si forma una giunta di governo, abbiamo Ettore Tibaldi che è il commissario della giunta e abbiamo la prima ministra donna, la Gisella Florianini. Attorno a questo quadro storico io racconto le vicende dello zio Natale, che era un partigiano delle brigate Val d'Ossola, del comandante Superti, che lui a tavola sempre, quando si facevano le feste comandate, io ti parlo degli anni 90 quando ero un bimbo, raccontava questi episodi, di cui non spoilerò perché ovviamente il romanzo poi li racconta, e c'è di più perché io, andando a scavare e tirando un po' i fili rossi della storia, della geopolitica, sappiamo oggi che, anche perché molti documenti sono stati desecretati, tu che sei del mestiere lo sai bene, sono entrati sicuramente anche i servizi segreti, sicuramente il SOE e l'OS e i nonni della CIA, che appoggiavano questi movimenti, tutto il partigianato, ma in particolare soffiavano su questa zona dell'ossola, perché poteva essere interessante per... E qui faccio punti di sospensione perché lo voglio spoilerare. Certo, ma anche perché appunto, e ricordiamolo magari per chi non conosce bene quella zona delle Alpi italiane, è una zona di frontiera proprio insomma tra il Lago Maggiore e la Svizzera. Sì, assolutamente, dici bene, ed è una caratteristica questa che rende l'ossola endemica, anche perché oltre ad avere le montagne, oltre ad avere il confine con la Svizzera, quindi era facile fare la spola e andare a parlare con eventuali emissari di altre nazioni, ma perché poi quella zona è una zona tremendamente industriale. Villa d'Ossola è piena di fabbriche, tessili, siderurgiche, chimiche, e si crea un contesto che è un misto tra il gappismo delle grandi città e invece il partigianato di montagna, certo. E più il confine, cioè succedono delle cose che possono succedere solo lì. Il primo episodio che io spiego, che è quello della scintilla, è un episodio da città, da grande città, e succede però a novembre del 1943. Quindi appena iniziata insomma la resistenza, per capirci. Esatto, appena iniziata la resistenza, quindi succedono delle cose veramente incredibili che possono succedere solo lì. Sì. Ascolta, tu prima parlavi anche di spie, insomma agenti di servizi stranieri, e proprio insomma nel tuo romanzo parli di Angie e Colin, che sono due agenti dei servizi segreti inglesi, no? Che si hanno il compito, l'obiettivo di appoggiare proprio le prime bande partigiane. Esatto, io ho creato questi due personaggi che sono totalmente di fiction, perché il romanzo è un romanzo di fiction e vuole avere anche, diciamolo, un traino commerciale, perché deve essere una lettura piacevole, anche se è un bel mattonazzo, però deve essere una lettura piacevole che porti il lettore all'interno di un'avventura. Quindi questi due personaggi sono, a cui sono particolarmente legato, perché sono due classici personaggi d'azione, però in realtà anche su il SOE e le spie e i servizi segreti abbiamo delle basi storiche. Io ho letto un manuale di David Stanford che si intitola Mission Accomplished, che appunto racconta, no? Va a scavare sulle missioni del SOE dal 43 al 45 in Italia. SOE è questa agenzia di servizi segreti inglese che nasce proprio in quegli anni. Beh, ecco, ci sono delle prove che anche in Ossola siano passate delle spie, come ti dicevo prima. Ovviamente non sono Angie e Colin, io poi questi li ho creati dalla mia fantasia, però ci sono assolutamente traccia di questi passaggi di agenti segreti che andavano poi, sconfinavano, andavano nella vicina Svizzera, sia a Berna sia a Locarno, dove c'erano degli uffici del SOE e anche dell'OSS, quindi anche gli americani ci passavano. Ci sono tantissime storie interessanti su appunto quegli anni, in generale la Seconda Guerra Mondiale, ma poi anche appunto più nel concreto la guerra partigiana e quello che succede in centro e nord Italia tra 1943 e 45, e insomma per quanto ci sia ancora molto da sapere, anche pur vero che negli ultimi 75 anni insomma le ricerche storiche hanno fatto dei passi avanti importanti. Immagino che, come anche tu ci accennavi già per quanto riguardava il SOE, per te siano state anche importanti per poter insomma creare il contesto in cui sviluppare la storia che è al centro del tuo romanzo. Sì, diciamo fondamentale per me è stato consultare determinati testi, sia di cronache locali, di autori locali. Penso a Carluccio Squizzi, che è un autore che è edito dalla mia stessa casa editrice, ma anche a Giorgio Bocca, che ha scritto dei libri su di noi, e anche più recente Leonardo Malatesta, che è uno storico veneto, che ha scritto proprio una cronostoria del comandante, del maggiore Dionigi Superti, che è il comandante della brigata di mio zio. Diciamo che quando ho iniziato a fare la ricerca, l'idea era sempre della fiction, ma io sono una persona abbastanza puntigliosa e quindi ho voluto scavare bene, anche perché il rischio, Steven, era quello di dire stupidate, io stupidate non le volevo dire, e soprattutto anche di fare torto, no? A tutti i partigiani che ci hanno lasciato la pelle, che si sono immolati per una causa, no? Per cui scavando, tirando i famosi fili rossi, sono venute fuori un sacco di storie meravigliose che poi ho dovuto tagliare, perché poi il mio editore Renato, quando gli ho portato il primo, diciamo, manoscritto, mi fa: senti Scacco, perché mi chiamano tutti Scacco, tagliamo un pochettino. Ma io sì, sono logorroico, come stai notando, e anche a scrivere, quindi sono abbastanza prolisso, però in realtà è l'ossola che in quegli anni è ricca di storie davvero omeriche, che andrebbero poi approfondite di più. Ascolta Stefano, letteratura sulla guerra partigiana ne esiste, e soprattutto insomma sono stati scritti libri fondamentali, penso a Fenoglio, penso a Pavese, per menzionarne solo alcuni, insomma nei primi anni, soprattutto nei primi due decenni successivi alla guerra partigiana. Ecco, tu ti sei ispirato anche o hai avuto un po' come modello alcuni di questi romanzi, di questi libri, o in realtà insomma rimangono un po' lì come un pantheon, per così dire, letterario, però non ti sono serviti in fin dei conti per costruire la tua storia? Posso dirti che mi sono emozionato a sentire questa domanda e ti ringrazio. E Fenoglio, il partigiano Johnny, per me è stato abbastanza importante. Di fatto in Ribelli, nel mio romanzo, spesso e volentieri i due protagonisti, Angie e Colin, che sono inglesi, parlano in inglese tra di loro. Troverete, i lettori troveranno delle parti in inglese, per omaggio al partigiano Johnny, no? Sappiamo che Fenoglio spesso, anche in contrapposizione al fascismo che bandiva lingue straniere, no? Lui rimarcava questa cosa, e sempre in Fenoglio troviamo la fisicità dei rittani, cioè queste vallate delle Langhe, no? Che lui descrive come se fossero un personaggio nel suo romanzo e anche in tutta la sua letteratura dedicata al partigianato. In Ossola non abbiamo i rittani, no? Perché non siamo in collina, siamo in montagna, abbiamo le valli che sono a V, e noi abbiamo i valloni, e il tema del vallone e della natura che aiuta il partigiano a nascondersi, in contrapposizione con la macchinosa città del fascismo, io direi che in Ribelli viene fuori. Cioè io faccio molto questa similitudine tra i rittani o cerco di farlo, senza scomodare paragoni storici e scomodi, cerco di fare insomma questo paragone tra il vallone e il rittano, ecco. E ascolta, se dovessimo ora, anzi proprio lo facciamo, mandare in onda una canzone per fare una piccola pausa nella nostra chiacchierata, che ha a che fare con la guerra partigiana e che a te è più cara, quale sceglieresti? Ma sicuramente Bella Ciao. Allora, c'è qualche versione in concreto? Perché se come sai Bella Ciao è una canzone che è stata, insomma, esistono più versioni di qualunque altra canzone praticamente nel mondo, no? C'è qualcuna che ti è più cara? No, non ce n'è una in particolare, ti dico però perché è cara, perché è spesso stata fatta oggetto, come troppe cose della nostra resistenza, di guerre politiche secondo me sbagliate, perché in realtà Bella Ciao, come spiega spesso anche Alessandro Barbero, non è una canzone di un partito politico, ma è una canzone della resistenza antifascista, quindi questo è bene specificarlo. E allora andiamoci a sentire una versione recente e particolare, quella di Tom Waits e Marc Ribot, Goodbye Beautiful, ossia Bella Ciao, nella versione di questo grande cantautore nordamericano che ha avuto contatti spesso con l'Italia, insomma andò al premio Tenco dopo aver conosciuto Benigni negli anni '80. E poi ritorniamo qui insieme a te. One fine morning I woke up early, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. One fine morning woke up early to find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, goodbye, beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. If I die, a partigiano, bella ciao, goodbye, beautiful. Bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people. People passing, bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. Questo era Tom Waits, la sua voce inconfondibile. Ritorniamo qui con Stefano Scacchetti, autore di Ribelli, il romanzo dalla scintilla di Villa d'Ossola alla Repubblica dell'Ossola, uscito a novembre del 2020 per i tipi di La Pagina, un romanzo ambientato appunto nella guerra partigiana, ai tempi della Repubblica Partigiana dell'Ossola, tra il settembre e l'ottobre del 1944, come proprio ci stava raccontando Stefano poc'anzi. Un'altra domanda che ti volevo fare, Stefano, riguarda appunto i racconti di tuo zio, no? E della tua famiglia, soprattutto tuo zio che era stato partigiano, come ci raccontavi. Insomma, tu eri, immagino, un ragazzino, un adolescente quando sentivi i racconti dello zio, ma qual è la percezione che ti portavi, che ti sei portato dietro dei ricordi che aveva di quell'esperienza tuo zio? Come lo ricordava? Con felicità, con passione, con tristezza? Quali erano un po', secondo te, le percezioni che lui comunicava quando ricordava quegli avvenimenti? Bellissima domanda. Lo zio, senza spoilerare troppo, se n'è andato, vabbè, nel 2010, se n'è andato per una cosa molto particolare che non vi dico che cos'è, perché dovete leggere il libro, però secondo me è collegata a tutto quello che ha vissuto. Io ricordo che oggi lui, in queste tavolate classiche all'italiana, sai, della Pasqua e del Natale, era il sorriso, cioè lui rideva, e questa è la cosa che mi ha sempre un po' scioccato. funzionava sempre così: si arrivava al dolce, si arrivava alla colomba, al panettone, qualcuno dava di gomito e gli diceva: ciao, dai Natale, raccontaci di quella volta che è successa quella cosa lì. E lui apriva sempre ridendo, poi un po' in dialetto, un po' in italiano, ti raccontava delle cose scioccanti. Cioè, un aneddoto dai che ti viene in mente così che puoi raccontarci? Allora, un aneddoto che posso raccontare fino a un certo punto è il famoso giorno in cui cade la Repubblica, o uno dei giorni in cui cade la Repubblica. Lui c'è una fuga verso la Svizzera, perché i giorni della Repubblica dell'Ossola sono finiti, per cui quello che rimane della giunta di governo e molti partigiani di scorta stanno andando verso l'Alpe d'Evero, che è una delle valli, delle montagne nelle valli ossolane, per sconfinare verso la Svizzera. C'è un momento di indecisione, perché loro devono passare il confine per arrivare in altura, possono andare o camminando e farsi diverse ore di marcia, oppure prendendo una funicolare, una funivia, famosa funivia del Devero. Purtroppo succedono delle cose, lui prende delle decisioni e purtroppo succede quello che succede, cioè arrivano i nazifascisti e quindi non farà una bella fine. Però io ho sentito raccontare queste cose, quindi diciamo che se l'è cavata. Ecco, quello che gli succede, cioè, quindi immaginiamoci un partigiano che viene trovato con le mani nella marmellata dall'SS, è una cosa drammatica. Le botte, i pugni, la prigionia, i calci nelle costole. E lui lo raccontava a tavola, diceva: quanta ghinoccia pa? E quanta mandai? Però rideva, e rideva. Bisogna capire però dal punto di vista, e bisognerebbe interrogare Freud o Jung, cosa, perché lui ridesse. Certo. No? Perché sicuramente dentro aveva qualcos'altro. Eh beh, sicuramente. E ascolta, il tuo libro è uscito, insomma, più o meno in mezzo alla pandemia, e quindi, insomma, come sappiamo, gli incontri pubblici sono stati molto pochi, purtroppo, in questi ultimi tempi. Però qual è stato un po' il feedback che hai avuto? E mi riferisco anche al fatto della memoria esistente sulla guerra partigiana nella tua terra e soprattutto all'esperienza della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Che feedback, che risposte hai avuto? Insomma, e così anche mi collego su qual è, secondo te, ora la memoria di quell'esperienza, appunto, nella tua terra d'origine. Sì, allora dici bene il discorso della pandemia, perché abbiamo dovuto fare due presentazioni, una in streaming il 7 e l'8 novembre 2020 per la prima, diciamo, proprio l'uscita ufficiale, e poi abbiamo fatto il salone della Fabbrica di Carta l'anno scorso, che è una delle fiere del libro più importanti su da noi in Ossola, al Teatro La Fabbrica di Villa d'Ossola. Abbiamo fatto la presentazione dal vivo, purtroppo con numero chiuso, per sempre questione Covid, però avevo 40-50 persone. Il tema da noi è molto sentito. L'Ossola, la Repubblica Partigiana dell'Ossola, da noi è sempre stato un tema molto, molto seguito, molto ricercato, e anche per quel che riguarda il post-guerra, l'Ossola è sempre stato un punto di riferimento. Anche per, abbiamo avuto una delle feste dell'unità più grandi di tutta Italia, la famosa festa dell'unità di Villa d'Ossola. Il feedback da parte dei lettori positivo, è piaciuto anche per proprio i temi che andava a trattare, perché abbiamo tanta cronaca di quegli anni là, tanti storici che hanno scritto, storici locali, ma pochi romanzi. Il mio è più che altro fiction, anche se basato su fatti realmente accaduti. Certo. Poi quando esci un po' dall'Ossola, in realtà si sa che c'è stata la Repubblica dell'Ossola, ma non è così famoso, no? Come dicevamo prima, come potevano essere le Langhe o Alba e Cuneo. Oggi, che cosa arriva oggi? Io credo che un grande tabù, no, che andrebbe scardinato, è quello della visione della resistenza e della guerra al fascismo come una fosse una partita di calcio. Cioè, in Italia vediamo tutti una guerra rossi contro neri. Ragazzi, non è così. Cioè, non è così. L'Italia è passata attraverso una trasformazione culturale e sociale che nasce proprio negli anni della Resistenza. Quello va capito. Il 2 giugno del 48, quando c'è stata la il referendum, se noi guardiamo i risultati del 46, grazie, scusa il lapsus, del 46, se noi guardiamo i risultati del referendum, regione per regione si vede benissimo dove vince la monarchia, dove vince, certo, la Repubblica, certo. E si vede che dove vince la Repubblica è dove c'è stato il partigianato nel nord. Perché? Perché c'è stata anche una rivoluzione culturale e siamo passati da essere neri a avere una cultura più democratica. Quindi poi può piacere o non piacere, ok, ma è un dato di fatto. L'Italia, grazie a quel movimento, cambia. Quindi smettiamola di vedere come fosse una partita di calcio, certo. Prima cosa, sì, sì. E seconda cosa che molti oggi non lo sanno e non capiscono, è che tutto il movimento politico antifascista è stato partigiano. I partigiani non erano solo una frangia o l'estrema sinistra o il comunismo, ma no, c'erano i monarchici che erano antipartigiani, c'erano i centristi che erano antifascisti. Quindi è questo che va capito oggi, dovrebbe essere trasmesso, e che si è perso un pochettino, secondo me. Sicuramente. Quello che ci dici si collega anche all'intervista che abbiamo avuto poco fa insieme al presidente di Ampi Spagna, Alberto Pellegrini, che in fin dei conti veniva a rimarcare anche alcune di queste cose. Stefano, un'ultimissima domanda al volo. So che stai già lavorando a un nuovo romanzo. Sì, sto lavorando a una sorta di seguito, perché ci sono tantissime cose ancora da dire, sempre su mio zio Natale e su altri personaggi che compaiono in Ribelli, quindi ci sto lavorando con l'editore, mi ha strappato una mezza promessa di finirlo entro l'anno, comunque di poterlo buttare fuori per Natale, non lo so se ce la farò perché sono un po' lento, e poi ci sono altri progetti, perché ce ne sarebbe un terzo, perché come ti dicevo l'ossola è veramente ricca e c'è tanto da lavorare, volendo. E quindi noi aspettiamo il secondo volume, poi magari anche il terzo, per chiudere questa trilogia. Stefano Scacchetti, autore di Ribelli, il romanzo della scintilla di Villa d'Ossola, la Repubblica dell'Ossola, ci ha accompagnato quest'oggi a Zibaldone. Stefano, un abbraccio, in bocca al lupo con il tuo libro e anche con il futuro libro che speriamo di poter leggere presto. Grazie a te, Steven, davvero. Un abbraccio, buona serata. Ciao, continuiamo con un po' di musica, una canzone che in fin dei conti si collega anche a tutte le vicende che raccontiamo, una visione personale sicuramente di quello che è stato il secolo scorso. In fondo al Novecento è il titolo di questo brano di Andrea Tarquini, che anticipa il suo nuovo disco in uscita prossimamente. Andrea Tarquini, tra l'altro, lo ricordo, cantautore tra Roma e Milano, discepolo in fin dei conti, se così vogliamo dirlo, di Stefano Rosso. Questa canzone, appunto, è In fondo al Novecento, Andrea Tarquini. In fondo al posto delle fragole c'è una ragazza con un cane blu, camminava di striscio, ci ho ballato un liscio. E non l'ho vista più. In fondo al mondo in bianco e nero, mio nonno è una foglia, disegnava dal vero. E anche in mezzo alla neve, con la sua mitraglia. Restava lassù. In fondo alla piazza c'è una storia vera. C'era mia madre e la sua borsa di tela. E altri 2000 e una grande bandiera. E c'eri anche tu. In fondo al mare sembra tutto uguale. Tutto sembra normale. Che succederà? Forse non era Natale. chi è rimasto là sotto. Non ritornerà. E in fondo agli anni, se rimango sveglio, faccio quel che voglio e poi viaggerò. Spiegherò a mio figlio che parlare alle fate servono parole mute sulle strade blu. In fondo al mondo della tua apparenza caccerò via chi non ha coscienza, quelli che chi ci pensa rimane senza. In fondo non so come dirlo, c'è ancora vento e tanto mare mosso, una vecchia storia di felce e mirtillo. Io sono sempre lo stesso. In fondo al posto delle fragole buone, quella ragazza con il cane blu era come un pensiero che non si toglie e che adesso è mia moglie. E in fondo è così. A missione della Banca Centrale Russa, le tensioni fra 5 Stelle e PD restano. Nuova proposta di Conte di fare pagare il prezzo più caro a Enrico Letta per il riscaldamento. Crescono i dubbi nell'Unione Europea sulle ipotesi di colpire la fragile superficie ghiacciata del lago di Braies. Macron vince la battaglia delle presidenziali come una ragazzata. La guerra e la corsa dell'inflazione spingono il Fondo Monetario Internazionale a rivedere la TV 24 ore su 24. Eclettico, emozionante, irresistibile. Biden annuncia un nuovo pacchetto da mettere sotto l'albero per i 100.000 civili intrappolati a Mariupol ed esorta: buttatevi nella vita, sognate in grande. Ma poi Putin interviene e smentisce: con le nuove regole russe a Mariupol non è più possibile sognare. I russi progettano una parata della vittoria sui nazisti all'Olimpico di Roma prima della finale di Coppa Italia per colpire l'Occidente, ma solo fra le righe. Le culle d'Italia si riempiono di Braccio di Ferro e Bella Cicca, sono i nomi preferiti dai neogenitori. Al secondo e terzo posto Harry e Meghan. Ma resistono anche i più classici Giuseppe e Antonio. Conte, per le bambine si conferma molto amato Maria De Filippi, mentre Salvini annuncia nuovi nomi di alto profilo e spero domani ci sia il fratello, la cognata e i due nipoti di un uomo di 76 anni mentre è al telefono con i carabinieri. Irrequieta, emozionante, irresistibile. Continua la missione del governo per incrementare le forniture di gas dai paesi africani. Ma i ministri sono stati costretti a tornare a Milano in bus, siglato da Bonovox degli U2. L'accordo con la Repubblica del Congo, temperatura mai più sotto i 25 gradi. Il Codacons risponde che produrrà energia per un fabbisogno di 60 famiglie, con una grande ed incredibile faccia da culo. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. C'è Bardo che sta parla fuori onda, occhio che il capo si arrabbia. Radio Contrabbanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che straparla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabbanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Radio Contrabbanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Eh sì, la domanda la faccio, caro Banzo, perché insomma avete sentito che sono tornate anche le ultimissime di Fausto e insomma ci sono parecchie news, insomma io credo a commentare, non so Banzo, tu per esempio non mi è molto chiaro cosa ha a che fare Bono Vox con il Congo e il governo italiano, ecco. Ma penso che non sia chiaro neanche a Bono Vox, in effetti che non... cioè... l'ho visto lucido solo quando ha detto che non gli piace la musica di U2, ecco. ultimamente, non so se ricordi che era uscita esternazione, poi non ho mai capito fino a che punto andasse presa sul serio, però ecco, non lo so, forse anche in Congo volevano sapere qualcosa di più su questo tema e gli hanno permesso di firmare un accordo. Comunque sono delle ultimissime molto particolari perché l'ultima parola in assoluto era culo, io questo volevo sottolinearlo e ringraziamo di questo il Codacons. Comunque, tornando un attimo a notizie più frivole, volevo appunto sottolineare, perché io non lo sapevo, questi nomi, questi nuovi nomi preferiti degli italiani, Braccio di Ferro per i maschietti e Bella Cica per le bimbe. Poteva andare peggio. Poteva anche andare meglio, diciamo. Sì, beh, quello è probabile, certo, però ecco, insomma, visto che non c'è limite al peggio, no? Poi, siccome io ho nostalgia per i vecchi nomi romagnoli assurdi, questi, forse Bella Cica mi lascia un po' deluso, Braccio di Ferro ci può stare, sì. Ecco. Avresti preferito Olivia? No, dico, stando in tema, stato, voglio dire. Sarebbe stato un po' monotematico, però non lasciamo limiti alla fantasia, ecco. E volevo anche sottolineare, molto importante secondo me, questa cosa che davanti alle sfide della guerra e dell'inflazione il Fondo Monetario Internazionale guarda la TV 24 ore al giorno. Mi sembra proprio un caso di escapismo da manuale. Ci sono delle responsabilità? No, no, guardo anche il monoscopio, se esiste ancora, ecco. Eh sì, è proprio così. Banzo, passiamo oltre perché ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata di Zibaldone. Abbiamo una bella news musicale, la collaborazione tra gli Zen Circus e Motta. Vi diciamo solo il titolo della canzone, ce l'ascoltiamo perché tra l'altro è una canzone molto lunga. Quindi insomma, poi la commenteremo. Caro fottutissimo amico, Zen Circus e Motta, qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda. Godetevi questo brano che... ve lo dico, dura più di 10 minuti, però non per questo non è un bel brano, anzi, tutto da ascoltare. Caro fottutissimo amico mio, ho giusto un filo di voce, gli anni a metà erano storie da bere, altre che fan male. Canzoni bambini in cerca di verità, futuri distanti, miti da sfatare. Eravamo frane, valanghe, stralci, persone. La notte era nostra e anche la fame, che corre ancora sopra il battere e poi sollevare. Su mille scuse che non stanno dentro una canzone, per una verità che non si può cantare. E tutto quello che finiva dopo un secondo non ci cambiava, mentre cambiava tutto quanto. E non sappiamo se la musica poi finirà, decide sempre lei. Lasciati attraversare, lascia che il mondo giri su se stesso, senza far rumore, qui dove nessuno può fare. farti del male. E dolcissime sono le parole per chi abbandoniamo e per chi rimane. Non avremo sonno, avremo solo questa santa voglia di sbagliare tutto, come è sempre stato, come solo è giusto, essere ancora e per sempre insieme. Decidiamo noi. Lasciati attraversare, lascia che il mondo giri su se stesso senza far rumore, qui dove nessuno può farci del male. E dolcissime sono le parole per chi abbandoniamo e per chi rimane. E non avremo sonno, avremo solo questa santa voglia di sbagliare tutto, come sempre stato, come solo è giusto, essere ancora e per sempre insieme. È un bel brano davvero questo. Sono 12 minuti di canzone, caro fottutissimo amico di Zen Circus e Motta Banzo, insomma, qui voglio subito sentire la tua, Beh, innanzitutto devo dire che la durata non è pretestuosa, perché 12 minuti di musica vanno riempiti, non dico necessariamente con moltissime idee, perché io sono anche un amante della musica minimalista, però con le idee giuste. E devo dire che questo brano mi ha sorpreso, non sapevo cosa aspettarmi, voglio chiarire, non mi aspettavo qualcosa di negativo, se stavate pensando quello. Prego. Mi ha sorpreso perché comunque sì, succedono tante cose, secondo me succedono anche le cose giuste, nel senso che la canzone ha un bel filologico, però è aperta all'esplorazione, questa lunghissima coda strumentale che è abbastanza sorprendente, però è sempre coerente. Devo dire, non sapevo cosa aspettarmi, lo ripeto, e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Sì, anche a me è piaciuto molto. Tra l'altro, cercando informazioni, ho trovato un articolo su Rolling Stones che parla appunto della collaborazione tra Motta e gli Zen Circus, un po' di questo disco che si poteva già ascoltare in anteprima, ricordo che è uscito da pochi giorni, lo scorso 15 aprile, ma poi ho trovato poi un'altra notizia, che è una delle più lette di Rolling Stones di questi giorni, che è morta Banzo Cynthia Plaster Caster, che non so se a te dice qualcosa, così su due piedi. Così su due piedi mi suona vagamente, però non sarei in grado di... E allora lo dico io. Fare un trattato, prego. L'artista che realizzava i calchi dei peni delle rock star, lanciata da Frank Zappa, apprezzata da tanti, i Kiss le dedicarono addirittura un pezzo e la sua opera più famosa era il calco di Jimi Hendrix che Led Zeppelin usarono a Detroit. Tra l'altro, guarda, adesso ti dirò anche qualcosa su quello, ma la sua collezione comprendeva anche Wayne Kramer degli MC5, Pete Shelley dei Buzzcocks, Jello Biafra, che disse: oh mio Dio, non posso competere con Jimi Hendrix. Steven, comunque questa improvvisa notizia è un po' come la coda strumentale del brano che abbiamo sentito, completamente imprevista. Devo dire, non mi aspettavo assolutamente che saremmo finiti parlare. Ma no, neanche io, però. Di tutto ciò. E... Però succede. Però lasciami aggiungere due cose. Che tra l'altro, tra il 1971 e l'80 aveva smesso di realizzare i calchi, perché insomma lei lo faceva solo con chi stimava e quando ne aveva voglia. E altra cosa interessante, nel 2010 corse per la carica di sindaca di Chicago, cosa che mi fa anche un po' pensare a un parallelo con Jello Biafra, che nel 1979, se non erro, si era presentato a sindaco di San Francisco. Chiudo con un'altra cosa che ci ricorda questo pezzo su Rolling Stones, dedicato, lo ricordo, a Cynthia Plaster Caster, che è il fatto che è citata addirittura in una canzone di Caparezza in Italia, che è La rivoluzione del sesso in tutto, che dice: 1, 6, 8 groupies nelle band, seni nudi su Electric Ladyland, Jimi Hendrix e Ginseng, Dio si chiama Zappa, Frank Vincent, a Chicago dalle Plaster Caster posso farmi il calco delle parti basse. Chiuderei con questo, Banzo, che dici? Guarda Steven, io sono annichilito, quindi ti lascio più, però visto che stiamo rendendo questo estemporaneo omaggio funebre, vorrei precisare che il nome vero di Cynthia Plaster Caster era Cynthia Elberton. Ecco. Bravissimo, bravo, hai fatto bene a ricordarlo. Andiamo oltre perché davvero ci restano pochi minuti e andiamo ad ascoltarci una canzone di Peppe Voltarelli, che è stato spesso nostro ospite, Els Mariners, una canzone che inizialmente Peppe aveva inciso in italiano, ma è stata incisa poi nuovamente in catalano in duetto con Rousseau Sala per l'ultimo disco di Peppe, che l'anno scorso si è aggiudicato anche la Targa Tenco, che si intitola Planetario. La mandiamo in onda perché tra praticamente un mese, il prossimo 28 maggio, Peppe Voltarelli torna a Barcellona per partecipare in uno spettacolo a più voci con diversi artisti italiani e catalani e spagnoli, dedicato ad Amilcare Rambaldi, il fondatore del Club Tenco. Casa Rambaldi è il nome dello spettacolo, il 28 maggio a Luz de Gas, una serata organizzata da Cose di Amilcare, il Club Tenco e il Barna Sanz, collaboriamo anche noi di Zibaldone, in cui appunto diversi artisti italiani canteranno canzoni di famosi cantautori catalani che hanno fatto la storia del Club Tenco, le canteranno ovviamente in italiano, e al contrario artisti catalani e spagnoli canteranno nelle loro lingue le traduzioni di cantautori che hanno fatto la storia del Club Tenco, che sono stati molto amati e vicini ad Amilcare Rambaldi, insomma da Paolo Conte a Davide Riondino, per citarne appunto solo due. Parteciperanno alla serata, oltre a Peppe Voltarelli e Russo Sala, anche Wayne Scott, Holden, Joan Isaac, Marta Imico, Michel Pujadò, Enrique Arnaez, Silvia Comes, Alessio e Giancarlo Arena, insomma artisti tutti che direi, se non sbaglio, sono passati anche dai nostri microfoni. 28 maggio, che è un sabato, alle 21 a Luz de Gas, che è in Carrer Muntaner numero 246, Es Mariners, Peppe Voltarelli e Russo Sala. Els mariners i se'ls emporta qui sap on. Llavors l'onada empeny l'aigua cap a terres llunyanes, cosa que troba, cosa que empeny. Fa fred i les mans li tremolen, aixeca't mico que ja és de matí. Aquesta és la vida dels mariners, aquest és el cor dels mariners, aquesta és la sang dels mariners, aquesta és la vida dels mariners, aquest és el cor dels mariners. Te'l sents als ronyons a cada pas quan camines. El sol quan et torra et crema la carn, cares negres i de closca dura. És la terra calenta rellisca, el mar t'abraça i se t'emporta lluny. Aquesta és la vida dels mariners, aquesta és el cor dels mariners, aquesta és la sang dels mariners, aquesta és la vida dels mariners, aquesta és el cor dels mariners. L'aigua cap a terres llunyanes, cosa que troba, cosa que empeny. És el dia que es desfà al vespre, alça't mico que ja s'ha fet de dia. Aquesta és la vida dels mariners, aquesta és el cor dels mariners, aquesta és la sang dels mariners, aquesta és la vida dels mariners, aquest és el cor dels mariners. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Es Mariners, Pepe Voltarelli e Russo Sala, che saranno insieme a tanti altri artisti il 28 maggio in questa serata Cose di Amilcare e Barna Sanz, intitolata Casa Rambaldi a Luz de Gas di Barcellona. Banzo, siamo arrivati a fine puntata anche questo venerdì, eh? È volata, guarda, una puntata assolutamente volatile, ecco, è successo di tutto. Di tutto. Insomma, abbiamo finito anche a parlare di calchi di pene, quindi fai un po' te. Insomma, puntata però dedicata, lo ricordo, al 25 aprile. Ci hanno accompagnato Alberto Pellegrini, presidente di Ampi Spagna, e Stefano Scacchetti, autore del romanzo Ribelli, ambientato nella Repubblica Partigiana dell'Ossola. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci diamo appuntamento per venerdì prossimo e ci salutiamo con l'ultimo trago, che è un'altra news che ci arriva dall'Italia, Pierpaolo Capovilla, che non ha bisogno di presentazioni, accompagnato dai Cattivi Maestri, con questa canzone contenuta nel suo nuovo disco e intitolata Morte ai Poveri. Niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 19.55 tutti i venerdì sera ripeteva che la cosa strana forse non è parlare di calchi di peni, ma menzionare nella stessa puntata Donna Assunta Almirante e Cinzia Plaster-Caster, e purtroppo in questo la grande livellatrice non fa eccezione. Hai ragione. Banzo, grazie di essere stato con noi, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima, Steven. Buon venerdì sera a tutti e noi ci andiamo ad ascoltare questo brano di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Morte ai Poveri. Buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore e un po' di rock and roll. Yeah! Nome di soltanto. senza motivo, senza spiegazione. E sono così male, e sul funerale, così lontano da casa. Non servirebbe a niente. Non servirebbe a niente.